Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, siamo tutti in quarantena, magari ci piacerebbe fare un viaggio e quale meta più bella che non la nostra Italia, e possiamo farlo questo viaggio, magari lo facciamo con un libro, partendo da queste righe dedicate a una delle più belle città italiane, Siena, di cui poi vi spiegherò la scelta. L'italiano che qui si sente parlare per le strade è la lingua dell'aureo 300. Dalla sommità dei suoi tre colli il cielo si spalanca più liberamente che altrove, e la terra di Siena, bruna e rossa di forze creatrici ancora vibranti, sembra possedere una natura sublime. Sembra la terra nella quale fu impastato il primo involucro dello spirito umano. Queste righe erano tratte da un'opera di Pavel Muratov, Immagini dell'Italia, di cui esce il primo volume dedicato a Venezia e alla Toscana, e pubblicato da Delphi, 466 pagine, 32 euro. Tradotto da Alessandro Romano e curato da Rita Giuliani. Muratov fu un intellettuale russo nato nel 1881, curioso ed eclettico, che dopo aver sposato una signora di origini italiane, nel 1908 visita il nostro paese, dedicandosi subito dopo alla stesura di questo libro, di cui uscirà il primo volume nel 1911, seguito dal successivo l'anno dopo. Muratov si entusiasma dell'Italia e della sua arte, tornerà nel nostro paese, soprattutto dopo aver abbandonato la Russia rivoluzionaria, che in un primo tempo aveva servito nel suo paese. Tra l'altro Muratov è riconosciuto come l'artefice della riscoperta dell'arte delle icone, poi andrà a Parigi e morirà nel 1950. Proprio a Roma Muratov diventerà famoso per la sua straordinaria conoscenza dell'arte italiana, di cui questo primo magnifico volume ci dà una testimonianza molto eloquente. Caratteristica, nota la curatrice, è l'armoniosa fusione di erudizione, di un talento narrativo del tutto inusuale nelle memorie di viaggio e di un gusto personale sicuro e riconoscibile. Troveremo nel libro, dice ancora Giuliani, passione, entusiasmo e slancio lirico. Ho introdotto Siena perché adesso parleremo con Chiara Frugoni di una delle testimonianze artistiche più importanti, non soltanto di quella città, ma della pittura occidentale, un'opera ammirata da tutti, studiata non solo dagli storici dell'arte, ma anche da storici e politologi. Mi riferisco al ciclo di affreschi che Ambrogio Lorenzetti dipinse nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena, appunto, che illustrano le allegorie del buon e del mal governo. Quest'opera fu dipinta tra il 1338 e il 1339 e ce ne parla la storica Chiara Frugoni nel libro Paradiso vista Inferno. È pubblicata dal Mulino, 340 pagine ricche di illustrazioni, 38 euro. Frugoni ci conduce passo passo nel palazzo di Siena per spiegare origine e significato di questa straordinaria testimonianza, oltre che artistica, dell'orgoglio di una comunità compiaciuta delle proprie istituzioni, come le chiameremmo noi oggi, e dell'effetto positivo che queste, se ben funzionanti, possono avere sull'economia e sulla società. Tutti temi molto moderni e tutti al centro delle riflessioni contemporanee che fanno gli scienziati sociali. Gli affreschi suscitarono subito l'ammirazione dei contemporanei e dei successori, come dimostrano le testimonianze per esempio di San Bernardino da Siena o del Ghiberti, che fu particolarmente ammirato della cultura di Ambrogio. E un grande affresco politico definisce l'autrice questo ciclo, e adesso gliene chiediamo le ragioni. Buonasera a Chiara Frugoni. Buonasera a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Chiara Frugoni, lei inizia il suo libro raccomandando una lettura che sia integrale degli affreschi del Palazzo di Siena. Che cosa rischieremmo di perdere senza questa lettura completa, integrale degli affreschi del capolavoro di Lorenzetti? Penso che se non si tiene presente l'intero ciclo degli affreschi, si perde il significato dell'intero programma. E nel passato a me sembra che sia successo proprio questo, cioè che c'è stata una grande attenzione alla parte teorica del buon governo, invece assai meno alle altre parti. Questo si riflette anche nel fatto che, per esempio, in Italia non ci sono libri che parlino dell'intero ciclo, tantissimi articoli, e invece mancava, col mio libro spero di avere colmato questa lacuna, una visione d'insieme, perché quello che il Lorenzetti ha voluto trasmettere è un messaggio politico che si legge passando dalla parte teorica poi alla esemplificazione. E in quel momento si è in difficoltà, siamo nel 1338-39, difficoltà agricola, perché pioveva troppo, quindi non si riusciva a seminare, quindi c'era povertà, c'era una grande inquietudine sociale, c'erano continue rivolte, accuse anche ai nove che allora erano al governo di corruzione, e quindi i nove pensano di rispondere con una voce che non svanisce, perché ricordiamoci che allora appunto non c'era la rete e tutto quello a cui siamo abituati oggi, e quindi attraverso gli affreschi. Affreschi che sono in una sala del Palazzo Pubblico dove stavano i nove e dove entrava la gente, dove entravano le persone. Allora secondo me la prima cosa molto interessante è che non c'è una storia rappresentata di persone importanti, di grandi personaggi, di santi, ma è di gente comune, e quindi le persone che entravano erano molto gratificate perché si vedevano in maniera positiva, perché il primo messaggio è che se tutti sono concordi e tutti sono operosi la città è un paradiso. Però nello stesso tempo viene detto, se i cittadini tolgono il consenso ai nove, capita l'inferno, perché in realtà quello che ho cercato di dimostrare è che anche nella parte della tirannide è di nuovo rappresentata Siena, non sono altre città come alcuni studi avevano voluto indicare, e facendo vedere proprio che sono gli stessi edifici che vengono rirappresentati mentre sono distrutti, quindi quello che veniva suggerito era che sarebbe stato il caos, e quindi neanche il buono e cattivo governo, come si dice. In realtà l'idea è che c'è un unico buon governo, e altrimenti la tirannide. Questa lettura politica può cominciare anche prima di arrivare nella sala di Lorenzetti. Lei infatti ci dà una lettura politica anche di un'opera apparentemente sacra, cioè La Maestà di Simone Martini. Come si collegano queste due opere? Si collegano moltissimo, nello stesso tempo fanno vedere il salto di prospettiva, nel senso che questa meravigliosa, veramente fra l'altro da poco restaurata, Maestà di Simone Martini, che brilla anche di pietre, di vetri, di specchi messi all'interno della pittura, rappresenta questa specie di udienza paradisiaca della Madonna, che dialoga con i cittadini e dice anche le cose che a lei proprio piacciono e quelle che non piacciono del loro comportamento. Però lì è ancora un discorso che è tutto all'interno di un punto di vista religioso, mentre invece quello che è la grande, anche un'ulteriore grande novità di questi affreschi, è che invece quello che si vede è che è del tutto laico, cioè non ci sono chiese, non ci sono ecclesiastici, e il Duomo è citato solo assolutamente di lato, ma perché rientra nelle grandi opere che i nove mostrano di fare, nel senso che loro pensavano di trasformare l'attuale Duomo nel transetto della chiesa e di costruire uno smisurato Duomo di cui ancora rimangono alcuni pezzi, e che poi non fu più costruito sia perché cedette il terreno sia perché poi arrivò la peste del 1348. Ma quindi è direi un unicum anche per la grandezza di questi dipinti, in cui è un programma solo politico, sono solo i nove che vogliono mostrare la bontà del loro governo, che si traduce in una sicurezza, e quello che io ho cercato di sottolineare quanto di questi concetti politici risuonino ancora a oggi, appunto perché sono strumenti di persuasione, quindi grandi opere, sicurezza da un nemico e capacità assolutamente di governarlo anche in modi molto spicci, perché qua e là vediamo teste mozzate, vediamo anche un modellino di un impiccato. Oltre al clima, un altro elemento turbava molto i senesi, l'economia senese in quegli anni, e cioè, le ne fa un ampio cenno, il tema dell'usura, sul quale però non si era aggregata una reazione politica. Che cosa rappresentò questo aspetto, l'aspetto economico della crisi di Siena in quegli anni? In quegli anni ci fu una veramente una tragedia, perché fallirono quantità di grandi compagnie bancarie, proprio perché tutte, sia regnanti che anche il pontefice, cominciarono a non restituire più quello che avevano preso in prestito, e quindi ci furono questi fallimenti. Però poi la città, cioè chi aveva questi banchieri, in parte riuscirono a riavere dei loro capitali, e quindi però cambiarono il tipo di investimento, quindi comprarono moltissimi, per esempio, campi, poderi, grandi ville. Per esempio, ecco, nel Buon Governo c'è la prima rappresentazione in campagna di ville in campagna, non casupole così di contadini, quindi grandi ville. Però questo sistema, e poi legato più specificamente a quello che lei mi sta chiedendo, all'usura, voleva dire che il comune faceva una politica in cui faceva dei tassi agevolati che agevolavano i grandi banchieri, e invece, rastrellando tutto il denaro liquido in circolazione, provocavano il disastro per i piccoli artigiani, per i piccoli, una protesta. E io la pubblico e la traduco, è molto impressionante, appunto, dei cittadini che protestano e accusano chiaramente, proprio in maniera esplicita, il governo di corruzione e di fare una politica che trascura, appunto, la gente più povera. Da qui, fra l'altro, anche una serie di rivolte che ci sono state, e anche di congiure contro i nove. E, per esempio, una cosa che faccio notare nel Buon Governo è che c'è la bottega dei calzolai, che è rappresentata con grande sottolineatura, e questo perché proprio i calzolai per tre volte hanno sventato una congiura che era contro proprio i nove, che altrimenti sarebbero stati uccisi. Veniamo invece agli effetti del Buon Governo in campagna. Qui, per la prima volta, si può dire, nell'arte italiana, irrompe il paesaggio, la campagna abitata. Che cosa rappresentò questa svolta? Fu un nuovissimo veramente sguardo alla natura, perché fino a quel momento in realtà la natura era stata sempre rappresentata, pensiamo al cielo, o il cielo del paradiso, quindi i fondi d'oro dei santi, oppure un cielo assolutamente immobile come quello, non so, di Giotto, pensiamo alla Cappella Scrovegni, dove il cielo è sempre blu. Invece per il Lorenzetti la campagna è guardata proprio nella sua realtà come fosse un personaggio, e sfaccettato, perché poi per rappresentare la grande fertilità della campagna di Siena vengono rappresentati insieme tutte le stagioni, e se uno non le guarda con attenzione non se ne accorge, ma in realtà passiamo dagli ulivi carichi di olive, dalle vigne cariche d'uva, al grano che viene mietuto e battuto, quindi siamo già dall'autunno all'estate, e poi ripiombiamo nell'autunno inoltrato, quando si semina di nuovo il grano. Si vede anche la gente che è vestita in maniera diversa, perché d'estate è più leggera, e invece quando si arriva a ottobre-novembre fa freddo, quindi i contadini sono vestiti pesantemente, e che stanno arando il terreno e stanno seminando. E in più anche nel cielo vediamo, e questa è una cosa che proprio credo aver notato per la prima volta, ci sono dei cigni che passano nel cielo e quindi danno questo senso proprio del mutare delle stagioni. E del resto Lorenzetti è anche il primo che, per rappresentare l'inverno, sempre nel Buon Governo, nelle parti alte dove ci sono le stagioni rappresentate come emblemi, c'è l'inverno che è un signore intabarrato e che ha in mano una palla di neve. Quindi c'è proprio il senso della campagna, che è una campagna bellissima, fertile, e che è assolutamente complementare alla vita in città, e c'è questa perfetta interazione, per cui per esempio le porte della città sono aperte perché entrano da lì le carovane che portano la farina, che portano la lana, e dalla città escono addirittura un gregge di capre che vanno in campagna. Grazie a Chiara Frugoni, autrice di Paradiso Vista Inferno. Buona serata. Grazie a lei. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti. aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Cremona ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda sociosanitaria territoriale di Cremona, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo. Hashtag sole per ospedale Cremona. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Da Siena scendiamo a Roma, dove resta purtroppo chiusa la grande mostra dedicata a uno dei giganti della civiltà, Raffaello, di cui la settimana prossima, il 6 aprile, celebreremo il 500° anniversario della morte. Speriamo che la mostra possa tornare fruibile al pubblico prima della chiusura definitiva fissata per il 2 giugno. Questa mostra è curata da Marzia Faietti e Matteo Lafranconi. Il catalogo è pubblicato da Schirà, 544 pagine, 16 euro, ed essa ripercorre a ritroso la vita di Raffaello dal 1520, l'anno appunto della morte avvenuta a Roma, al 1483, l'anno della nascita a Urbino. E in questa occasione Schirà su Raffaello pubblica il libro di uno storico dell'arte che lavora alla sovrintendenza capitolina e beni culturali, Costantino D'Orazio, e che ha scritto Raffaello, il giovane favoloso, 164 pagine, 16 euro. Questo è un libro originale e utile perché fa conoscere Raffaello attraverso i protagonisti dei suoi ritratti e delle sue pitture. I personaggi sono una trentina e i loro racconti ci presentano non solo Raffaello e i rapporti che ciascuno di essi ebbe col grande pittore, ma ricostruiscono i momenti più esaltanti della civiltà del Rinascimento, vista attraverso le corti e protagonisti di quel periodo, e quindi incontreremo papi, intellettuali, artisti e poi Roma, Urbino e tante altre città italiane. E sentiamo dal libro l'opinione abbastanza convergente che su Raffaello ebbero i due artisti che con lui rappresentano il vertice dell'arte italiana, cioè Michelangelo e Leonardo da Vinci, ai quali l'autore mette in bocca queste parole. Sentiamo prima Michelangelo. Raffaello aveva appreso la lezione alla perfezione, aveva saccheggiato lo stile di Perugino finché andava di moda, s'era approfittato della disponibilità di Pinturicchio, che l'aveva accolto nel suo cantiere al Duomo di Siena, aveva osservato con attenzione le Madonne di Leonardo per dipingerne di altrettanto dolci e vitali. Come era stato più discreto, ma altrettanto furbo. Tutti noi avevamo svolto un ruolo fondamentale nella sua strategia, senza saperlo. Sanzio aveva imparato a fondere i nostri linguaggi ed elaborarne uno tutto suo. A quel punto della sua carriera non poteva soffrire che qualcuno pensasse di ostacolare la sua ascesa. La mia indifferenza l'aveva offeso. La mia avvicinanza ai suoi colleghi l'aveva indispettito. La sola idea che io potessi prestare i miei consigli a Sebastiano del Piombo non lo faceva dormire la notte. I suoi timori erano corretti. Sarei sempre stato un suo grande ammiratore e un suo nemico. E adesso Leonardo da Vinci. In quegli anni fiorentini produsse Madonne che riecheggiavano la luce tersa dei miei dipinti. Si disponevano in pose che sembravano tratte dai miei cartoni. Arrivava a copiare dettagli all'apparenza minimi, come i sorrisi e le punte dei piedi. Eppure, proprio in questi particolari risiedeva la grazia delle mie figure, che Raffaello assorbì con sorprendente velocità. Malgrado fosse a capo di una bottega, non aveva alcun problema ad ammettere che dovesse ancora imparare. La verità è che voleva apprendere tutto ciò che interessava alla nuova generazione di committenti che si stava affacciando sul mercato. Vantava una grande forza d'animo, accompagnata da un talento fuori dal comune. Il destino aveva in serbo per lui grandi imprese. Me ne resi conto quando giunsi a Roma. Nel giro di pochi anni aveva ridotto la città ai suoi piedi. Non c'era nobile o prelato che non fosse in lista per ottenere un suo dipinto. Era perfettamente a suo agio, al centro dell'attenzione. Io, da par mio, avevo deciso di tenermi in disparte. E sempre il Raffaello degli anni romani troveremo nel libro di Pierluigi Panza, Un amore di Raffaello, pubblicato da Mondadori, 216 pagine, 17,50 euro, che ricostruisce in via romanzata il rapporto con la celebre Fornarina, un rapporto collocato nel brulicante e febbrile periodo della Roma rinascimentale, di cui Raffaello, come abbiamo sentito da Michelangelo e Leonardo, fu protagonista riconosciuto. E vi ricordo un libro di cui abbiamo già parlato, quello di Marco Carminati, Raffaello Pugnalato, pubblicato dal Sole 24 Ore, 192 pagine, 14,90 euro, che racconta le vicende spesso drammatiche capitate a molti capolavori di Raffaello. Su uno degli interventi più importanti di Raffaello, quello alle logge dei Palazzi Vaticani, segnalo il bellissimo volume di Nicole Dacot, una storica dell'arte belga, appassionatissima dell'Italia, dove morì nel 2014. Il libro si intitola Logge di Raffaello, è tradotto da Chiara Formis per Iacabook, 352 pagine, 50 euro. Questo di Raffaello è un ciclo particolarmente significativo, oltre che per la grandezza artistica, per due ragioni particolari. La prima, che esso rappresenta forse l'espressione più compiuta di quella venerazione per l'arte antica che era esplosa proprio in quegli anni, grazie anche al ruolo che a Raffaello era stato attribuito di tutelare le antichità che venivano scoperte in quegli anni, non soltanto statue ma anche pitture, decorazioni, edifici dai quali gli artisti rinascimentali trassero spunto per un motivo decorativo che diventò popolarissimo e che nelle logge troviamo applicato a profusione, cioè le grottesche. La seconda ragione è la capacità di Raffaello di fare scuola per dipingere questi ambienti. Infatti il grande Raffaello fece collaborare tanti altri grandi pittori dell'epoca e del frutto di questa collaborazione vediamo i risultati nelle immagini di questo magnifico libro. Sempre Iacabuc su Raffaello ha ripubblicato Le stanze di uno storico dell'arte tedesco, Christoph Luitpold Frommel, anch'egli appassionato dell'arte italiana, che ha coltivato in frequenti impegni accademici anche a Roma. Il libro ha 220 pagine, costa 130 euro ed è particolarmente interessante perché ci mostra e ci descrive le stanze di Raffaello, che è inutile ricordare è una delle più alte espressioni del Rinascimento, dopo il lungo restauro condotto alcuni anni fa. E concludiamo il nostro breve giro d'Italia con un altro libricino di memorie italiane, quello redatto da una celebre scrittrice britannica che avevamo ricordato l'anno scorso nel bicentenario della nascita, cioè George Eliot, pseudonimo di Mary Ann Evans, che fu in Italia 160 anni fa. Nel 1860 infatti aveva intrapreso il classico Grand Tour, la Eliot arrivò dal Moncenisio, a Torino incontrò casualmente anche Cavour, che descrive come un uomo che ti dà allo stesso tempo l'impressione di stare pensando a molte faccende, che ringrazia il cielo e non se ne vanta. Poi la scrittrice va a Genova, Pisa, Roma, Napoli e tutta la campagna ancora borbonica, visita Pompei, Salerno, Pestum, Amalfi, poi va a Firenze, a Bologna, a Padova, a Venezia, a Verona, a Milano e poi dal passo dello Spluga torna a casa. E da questo viaggio, che durò per un paio di mesi, Eliot ricavò un diario ripubblicato dalla Vita Felice, Ricordi d'Italia, 1860, 174 pagine, 12 euro, che fu curato da Franco Venturi e che qui troviamo col testo originale in inglese e la traduzione di Sara Grosoli. Le impressioni della Eliot sono spesso sorprendenti, ai suoi tempi furono perfino accusate anche di superficialità. Davanti a San Pietro, per esempio, la scrittrice afferma che l'esterno della cattedrale è persino brutto, causa una costante irritazione con il suo parziale occultamento della cupola. E non c'è traccia nelle pagine di questo libro, che appunto vede l'Italia nel 1860, pochi mesi prima dell'unificazione nazionale, non c'è traccia dei sommovimenti che negli stati che ella andava visitando sicuramente si stavano manifestando. Ma del resto è la stessa Eliot a spiegare nelle prime righe della sua cronaca che adesso ascoltiamo lo spirito con cui affrontare la lettura di questo libro e in fondo aggiungo io anche qualunque viaggio che intraprendiamo. Il viaggio non può quasi mai essere privo di una continua corrente di delusione se l'obiettivo principale non è l'ampliamento della propria vita generale, in modo da far entrare persino la stanchezza e le seccature nella somma dei benefici. Un'importante deduzione che ho ricavato dalla delizia di contemplare oggetti di rinomanza mondiale è la frequente doppia consapevolezza che mi dice che non sto godendo abbastanza di quel che vedo e che quando arriverà un piacere più acuto insieme alla riproduzione delle scene nella mia immaginazione, avrò perso alcuni dei dettagli che si imprimono troppo debolmente in me al momento, perché le facoltà non sono state sollecitate a un energico sforzo. Dicevo prima che il viaggio della Elliot si colloca nella tradizione del Grand Tour, quel viaggio che gli esponenti della classe agiata compivano in Italia per cercare le tracce delle civiltà antiche, un viaggio che la Elliot non fu certo la prima donna ad aver compiuto. Anche in tempi più avventurosi, infatti, erano state in tante a compiere questo viaggio leggendario, e ci presenta queste figure uno storico dei viaggi, Attilio Brilli, che con Simonetta Neri ha scritto Le viaggiatrici del Grand Tour, storie, amori e avventure, pubblicato dal Mulino, 244 pagine, 16 euro. E prima di salutarci ricordiamo insieme Alberto Arbasino, scomparso lunedì scorso, un protagonista assoluto della cultura italiana del Novecento, i cui libri e i cui articoli ci hanno per anni trasmesso il segno di una personalità unica, fatta di curiosità, cultura, apertura verso il mondo, una vena inconfondibile di snobismo, un grande senso dell'umorismo, una capacità micidiale di cogliere i tratti dell'indole nazionale e in particolare del suo ambiente intellettuale. E lo ricordo perciò con queste righe, che sono tratte non da un libro ma dall'intervento che Arbasino fece nel 1998 agli Stati Generali di Milano, che erano stati convocati dal sindaco della città Albertini e al quale io stesso l'avevo invitato, intervento poi pubblicato su Repubblica. Un paese sovraccarico di conformismi, intolleranze, pregiudizi, prescrizioni, provocazioni, tabù, dove già basta affibbiare etichette di destra o sinistra al restauro di un teatro, all'apertura di un museo o a una linea tranviaria, per suscitare conflitti o balletti di invidie e gelosie e meschinità e censure e acidità e aggressioni, come se si trattasse di posti e stipendi e limousine di ex presidenti ai premi letterari. Mentre a tutti i premi precedenti, con vincitori altrettanto risaputi e scontati, ma senza questioni di stipendi o limousine, nessuno faceva osservazioni. I posti, signore nostre. Basta avere presenti i veleni, dopo più di 30 anni contro il gruppo 63 o i 68ini, perché volevano prendersi i posti. I libri di Arbasino sono in corso di ripubblicazione da Adelphi, a partire da quello che forse è il suo capolavoro, un libro scritto e riscritto negli anni, Fratelli d'Italia, 1370 pagine, 25 euro, e poi i titoli più recenti, Ritratti e immagini, 354 pagine, 23 euro, Ritratti italiani, 552 pagine, 28 euro, e pubblicato da Garzanti, In questo stato, un libro che di osservazioni e di commenti che gli erano stati ispirati dal caso Moro, 206 pagine, 12 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Michele Priviato e gli amici della regia, quelli che non vedo. Qua anche questa è una trasmissione che viene realizzata in emergenza, mi scuso se la qualità non è eccelsa. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, librochiocciola24.it, e il nostro sito www.radio24.it. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.